sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Esiste un momento profondamente liberatorio in ogni rapporto, in ogni relazione, in ogni contatto con essere umano. È il momento in cui uno ha il coraggio di iniziare a far volare gli stracci. Far volare gli stracci significa dirsi in faccia quello che si è covato per tanto tempo. Significa avere il coraggio di aprire la bocca e far uscire fuori tutto quello che è stato sempre compresso nella propria coscienza, nella propria volontà, nella propria attitudine, che si sente come un peso forte nello stomaco. Di solito accade, a me almeno accade, che comincia ad incrinarsi il tono della voce, mi cominciano a tremare lievemente le membra, comincio a sentire qualcosa che non riesco più a trattenere, un po' come quando il fisico non risponde più alla volontà di contenere alcune sue emissioni. E uno comincia e dice, e nel momento in cui dice quello che sempre avrebbe voluto dire è come se fosse un terzo testimone, che ascolta il suono delle proprie parole, che sono come sassate che rompono vetrate, e ci si bea e ci si abbevera, e l'adrenalina sale sentendo la forza dirompente di quello che si dice, e si comincia a vedere il volto prima perplesso, poi stupefatto, poi colpito, poi atterrito dall'altra persona che non se l'aspetta, perché abbiamo rotto le convenzioni, siamo usciti dalla mielosa maniera di non dirsi mai in faccia quello che uno vorrebbe dire. E io molte volte, quando qualcuno fa questo nei confronti della mia persona, sono molto soddisfatto. Nicoletti, sei un grandissimo coglione e mi dispiace che una trasmissione come la tua possa rovinare una radio così bella come Radio 24. È troppo facile interrompere, maltrattare e poi chiedere venia e scusa. Sei molto antipatico. Io mi rendo conto che lei, Nicoletti, è veramente un cretino, ma un grande cretino. E invece di uccidere i rimedi della nonna, io ucciderei lei. È anche un maleducato, Nicoletti. Io mi auguro che le tolgano il programma e che faccia fare qualcos'altro. Forse di più serio, sei in grado di fare qualcosa di più serio. Addio. Lei è troppo cafone, ma proprio sembra che non abbia, come si dicono nel basket, i fondamentali della buona educazione. Lei è maleducato, ineducato, senza classe, senza stile ed è anche un pochetto ignorante. Credo che lei stia proprio andando a fare, come si usa dire, la pipì fuori dal vasetto. Questi sono gli antichi, vecchi, immarcescibili e meravigliosi amici dell'odio, che continuano ogni giorno imperterriti a mettere messaggi, a esprimere il loro giudizio nella segreteria telefonica di Melog. Non hanno più la gloriosa possibilità di quotidiana e celebrazione del loro odio, ma ogni tanto, quando ho l'occasione, quando me lo permette naturalmente l'argomento, mi piace ritirarli fuori, perché sono la mia linfa vitale, sono la mia guida, sono il mio faro. Io vorrei, dovrei, cerco tutte le volte che posso di essere come loro, cioè di abbandonare quella soglia del pudore, quella reticenza e quella terrificante, schiacciante educazione fanciullesca che, ahimè, ho dovuto subire in varie fasi della mia esistenza, che mi permette molte volte di non mi permette molte volte appunto di dire quello che penso. Eppure ieri abbiamo avuto una meravigliosa espressione pubblica di stracci che volavano di fronte a tutti, addirittura di fronte alla nazione. Volete mettere quello che è stato, ne avrete già sentito parlare, ne parleranno i colleghi che si occupano delle vicende della politica, ma avrete seguito, seguirete oggi sui giornali la vicenda Berlusconi-Fini. Al di là di ogni valutazione politica, che non sta a me fare, non interessa nemmeno a me fare, ma io ho visto dei momenti di fantastico volare gli stracci in televisione. Raramente mi è accaduto vedere due politici trasformarsi in dei ruoli così familiari, in dei momenti che di solito si vedono accadere nelle riunioni di famiglia, nelle feste comandate dove si consuma il tacchino tutti assieme. È stato veramente bello, ripeto, se mai fosse necessario, ma chi mi conosce lo sa, non, la estrapolo completamente dal contesto. Vedere due alte cariche dello Stato così palesemente presi in una sorta di fantastica liberazione di ciò che avevano dentro. Prima parla Fini, Berlusconi scuote la testa, non è microfonato, e Fini dice a un certo punto: inutile che fai quella faccia, io continuo a dirtelo. Poi arriva su Berlusconi e ridice a Fini quello che pensava: tu mi hai detto, tu hai fatto, quella volta eravamo insieme, perché non lo dici adesso? E Fini strilla, parla, ma non è microfonato, si alza in piedi a un certo punto, poi riparla lui e l'altro nuovamente riprenderà le sue posizioni. Un alternarsi di mimiche facciali e di atteggiamenti che denotano finalmente un'aggressività che si libera, non può liberarsi fino al termine estremo in cui gli stracci volano, volano i schiaffi, volano i pugni, perché si è sempre figura istituzionale in un contesto fortemente visibile. Però già era chiaro che il far volare gli stracci è una tendenza intima nell'umanità, insita nell'umanità, intimamente sentita da ogni essere umano. Beh, questa mattina vorrei che mi segnalaste tutte le volte che siete riusciti a superare questa soglia alla decenza, avete fatto volare gli stracci. Un'infinità di occasioni in cui improvvisamente, dalla pacatezza, dal silenzio, dalla cupezza, ho cominciato ad alzare la voce e ho detto, fino a che a un certo punto non mi viene la voce chioccia, perché io ho questo problema: quando mi arrabbio mi viene la vocettina da castrato, infatti mi arrabbio poco, cerco di usare l'attacco freddo, cerco di demolire con il sorriso sulle labbra, perché se comincio a strillare perdo subito, non è il mio terreno quello dell'urlo, o perlomeno in famiglia mi dicono che sono uno che strilla molto, però in famiglia non ho necessità di mostrare sempre una splendida compattezza anche nell'ira. Beh, questa mattina se chiamate all'800240024 e mi raccontate le metodologie, il crescere dello stupore nei confronti dei vostri, da parte del vostro interlocutore, nella platea che voi avete stupito, tutte le volte avete avuto il coraggio di urlare, di litigare, di affrontare e dire esattamente quello che pensavate, beh, se voi telefonerete all'800240024 questa mattina ho ben 4 libri infami con i quali premierò la vostra capacità di supportare facilmente e amorevolmente la mia trasmissione in mattinate come questa, che non avrei poi tant'altro da dire. Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito. Non sento, che cosa hai detto? E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito. Come? Mi ha sentito, Capone. Ah, Walter, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Questa è una frase che è diventata famosa, è stata ritirata fuori molte volte, era entrata nell'uso comune di molte liti fra fidanzati, se solo chiacchiere distintivo, ci si sentiva dire. Era la battaglia verbale fra Robert De Niro, Al Capone, contro Kevin Costner, che era un agente federale, negli Intoccabili. Se solo chiacchiere e distintivo, diciamo, ti nascondi dietro il baluardo del tuo status e sei capace soltanto a chiacchierare. È l'inizio di un crescendo, l'inizio di un crescendo che potrebbe esplodere in qualunque cosa. Quante volte vi siete trovati in questo fantastico ottovolante in cui vi sentite sull'orlo, sul discrimine più acuto della vostra soddisfazione, del vostro piacere, quello in cui state per vomitare in faccia a una persona quello che pensate di lui. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, complimenti comunque, perché lei è veramente un, posso dire, un grande. Ma lei comincia a ruffianarsi in una trasmissione in cui bisognerebbe far volare gli stracci. No, scusi, no, parte sbagliato. Io sono, non avrà mai il libro infame se comincia così. Io sono di sinistra. Però peggiora la sua situazione, scusi. No, oltre ad essere tranquillo, è anche ancora, sì, in un mesto, però, momento, mi scusi. No, la sto però provocando, vorrei che lei si arrabbiasse. No, no, no, io non sono arrabbiato assolutamente, anche perché io, guardi, l'ammiro veramente. Non ruffiano, non faccio niente. Beh, un po' sì, si però sta ruffianando. Io condivido comunque quello che Fini ha detto, ma nel senso che, insomma, nessuno ha mai detto a Berlusconi, nessuno, sì, però, scusi, ha lei mai di sinistra la voce con... No, no, con... posso dire una cosa, mi scusi, lei di sinistra nel luogo comune più scontato. Stiamo parlando in una fantastica elaborazione dell'arrabbiarsi, mi viene a parlare di Fini e Berlusconi, di cui non me ne può importare nulla questa mattina. O ha sbagliato trasmissione o mi sono mal spiegato. Questa è una trasmissione in cui si metaforizza il reale, si cerca nelle pieghe della realtà ciò che gli altri non vedono. Se lei mi dice quello che c'è sui giornali questa mattina, no, io mi addormento. No, no, no. Io condivido il Fini che comunque alza la voce con Berlusconi, perché comunque... Beh, non è che l'abbia poi alzata tanto, se proprio vogliamo entrare nel... No. Con quella cravattina rosa, poi è un po' difficile alzare la voce con la cravatta rosa, ma non voglio entrare adesso, vede, lei poi mi trascina. Guardi, facciamo così. Non la seguo perché sarebbe brutto, poi mi dicono, perché è fuori tema. Le regalo subito un libro infame, così la faccio contenta. Allora, mettiamo subito, ha vinto, anche se non ha fatto niente, ma diamo subito. Vai. Il vincitore. Ho vinto qualche cosa? Allora, a Gianluca, primo ascoltatore che avrebbe dovuto dare il via a una trasmissione in cui uscivano fuori lacrime, sangue e rissosità, ma essendo, come ha detto lui, una persona calma, una persona di sinistra, ha semplicemente voluto continuare il dibattito politico, di cui non mi importa niente. Comunque, per questa sua meravigliosa maniera di rimanere sempre sulle sue posizioni, regaliamo il libro infame di Willer Bordon, Perché sono uscito dalla casta. Un uomo politico che ha avuto il coraggio di dimettersi dal Senato, racconta in presa diretta gli sprechi e il declino della nostra classe dirigente. Guardi, non era per lei, ma lei cade proprio a fagiolo. Glielo regalo e glielo dedico, perché impari che nella vita bisogna anche guardare oltre quello che è scritto la mattina sui giornali. Io la ringrazio, la tutti i giorni. Però ogni tanto si incazzi un pochino, perché sennò con questa voce tranquilla... No, io non mi incazzo mai. Mannaggia il diavolo. Vabbè, buona giornata Gianluca, buona arrivederci. Giornata. Giacomo, buongiorno. Salve, buongiorno. Vediamo innanzitutto, se... Guardi, l'ho finiti i libri con un minimo connotazione politica, l'ho finito. Torniamo a parlare di argomenti melogmani, se fosse possibile. Giacomo. Beh sì, le posso parlare di un fatto che è avvenuto nella mia quotidianità lavorativa. Dopo anni di impegno al lavoro, impegno duro, che mi hanno portato anche a sacrificare probabilmente qualche affetto... Non è detto che sia un male, può essere che magari... Alla fine, può essere che alla fine ci ha anche guadagnato. No, dice, che ne sa? Guarda, gli affetti nella fase della decadenza, nella fase della putrefazione della passione, diventano dei pesi insopportabili. Quindi forse alla fine, che lei si è solo dedicato al duro lavoro, si è evitato probabilmente dolori molto più lancinanti e molto più profondi. No, ma preferisco avere dolori per affetto piuttosto che per lavoro. Vabbè, ognuno può farsi del male come vuole. Prego, andiamo avanti, andiamo al punto. Allora, andiamo avanti. Ero in una fase cruciale, diciamo, della mia carriera lavorativa, quando nel corso di una riunione con un cliente molto importante, al cospetto anche dei commerciali, io sono un tecnico, dopo varie insistenze che duravano, a dire il vero, da mesi, ora non sto nel dettaglio, e ho gettato gli stracci anch'io, nel senso che mi sono rivolto al cliente importante come se fosse il mio compagno di scuole medie con cui giocavo a pallone, e quindi con un'esperienza lavorativa di una quindicina d'anni, quindi insomma non mi era mai capitato, però quando è troppo si descriva, lei quello che mi interessa, però non è tanto il fatto in sé. Voglio capire la dinamica del far volare gli stracci. Qual è stata innanzitutto che l'ha fatta scattare, e qual è stato il crescendo della sua reazione? Beh, è stato proprio quello il bello, che non c'è una vera dinamica, c'è un'esplosione. C'è un momento in cui la lingua va da sola, non pensi più, di getto, c'è un blackout. È quello l'ira. Non c'è una vera dinamica. L'ira è cieca, dicono, è accecata. Certo. Quindi a quel punto non riesci anche dopo... A spiegare razionalmente cosa sia accaduto, perché sono delle cose istintive, qualcosa che è dentro di te che esplode. È una parte ferina che sta in noi, che ci dice che a un certo punto bisogna spogliarsi di questo vestito, esce fuori la pelliccia della fiera, dell'animale che è in noi, e siamo aggressivi. Beh, la cosiddetta parte rettile del cervello, qualcosa del genere, dico. Dipende dove quindi... uno ha collocato il cervello, la parte rettile di solito è da altre parti, però non mi faccia scivolare in questi territori che per me sono veramente pericolosi. Però le posso dire che alla fine, malgrado sicuramente mi sia giocata una possibilità di crescita, malgrado quello e malgrado abbia magari anche provato un po' di disagio dopo quella... Che faccia faceva il suo interlocutore? Ma il mio interlocutore immagino che fosse una persona molto abituata a fronteggiare scatti di quel tipo, essendo, penso, un provocatore professionale. Quindi non è caduto in una trappola, tutto sommato? Certamente sì, è esperienza anche quella. Anche questo è un lato che bisogna senz'altro sottolineare. Far volare gli stracci, perdere la pazienza, aggredire un provocatore professionista, significa stare al suo gioco, perché non chiede di meglio, o vuole dimostrare alle persone presenti che siamo degli isterici, che non siamo in grado di controllare la nostra emotività, o che siamo sempre dalla parte del torto. Quindi bisogna colpire laddove, sembra vigliacco dirlo, si sa che si farà male. Se si immagina che non si farà male, è meglio fare un passo indietro e mandarla giù la rabbia che deve uscire, secondo me. Sara, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono stata sposata 25 anni e ho sempre portato pazienza per i figli, per la famiglia, per questo, per quella. Poi è successo che c'è stata una goccia, una cosa piccolissima, che ha fatto traboccare il vaso. E qual è stata questa goccia? È stata una stupidaggine, però io... Ma ce la dica però, sennò... Ce la dica, sennò... Perché mio marito aveva fatto un complimento a una mia amica. Solo questo, sì. Sì, ma perché avevo sopportato altre cose molto più grandi, quella lì è stata una stupidaggine che ti fa, e allora è stato come il vulcano quello dell'Islanda, sa? Cioè di tante amiche che aveva trapassato a fil di spada, lei l'ha sopportato, sì, l'ultima sì. Che gli ha fatto un complimento è sbottata. Sì, E quindi? Non so perché, e quindi ho fatto come il vulcano quello là dell'Islanda, ho fatto dei grand'anni. E cosa è successo? No, dica, lo dica, perché dobbiamo sapere. Che prima ho detto tutte le cose, ma ne ho parlato per più di un'ora, ho detto tutte le cose che avevo sopportato in quei 25 anni. Poi, siccome vedevo che dall'altra parte non c'era, dicevo, perché vedi, io sono stata sposata con te, e questo, avevo un vaso, un bellissimo vaso, ma l'ho comprato per noi due, per la nostra famiglia, e dico, oh porca miseria, mi è caduto per terra, e lo facevo cadere. Poi avevo fatto la raccolta dei bicchieri al supermercato, e dico, anche questi bicchieri si è bevuto dentro, ma che peccato, mi stavano cadendo. Quelli vinti con i bollini dell'acquisto. Sì. Poi mi ero confessato. Anni di schede con i bollini infrante in un istante. Sì. E poi ho tirato giù le tende, ma non solo la tenda, ho tirato giù anche il muro. Ha cominciato a demolire case, lui rimaneva lì impassibile. No, non era impassibile, era preoccupatissimo perché diceva che stavo diventando pazza. Infatti era vero, perché avevo sopportato troppo, e come il vulcano sta fermo, no? E poi esplode tutto in un colpo. E alla fine, quando è finita questa opera di distruzione, cosa è successo? Me ne sono andata. È uscita di casa dopo averla distrutta? Sì, sì. Vabbè, la vedo tranquilla però, non riesco ad allucinarla in questa situazione, però mi fa piacere sapere che almeno ci ha provato. Roberto. Buongiorno. Sono qua. Allora... è successo proprio ieri, e infatti sentivo la trasmissione e dico, guarda, proprio giusto. E ieri era una giornata, si vede che era nell'area, non so, dai vertici istituzionali a casa di Roberto è successo qualcosa. No, non esattamente a casa, quanto in ufficio. In ufficio. Quindi con il mio capo, e la cosa è nata proprio in piano piano, sottile, ed è esplosa nel momento in cui un capo ti dice che in pratica tu stai lavorando contro la società. Sì, è una tecnica per farti arrabbiare, lo sai, no? Sì, e quello è stato proprio l'innesco della bomba che ha fatto scendere. Sì, però Roberto, non vorrei crearti preoccupazioni. Solo quando i capi ti portano e ti provocano a questo livello perché ti vogliono segare, sta attento, perché c'erano testimoni quando tu hai fatto questo gesto. No, testimoni sì, ma siccome in effetti è una situazione che conosciamo in azienda, e in effetti stanno facendo dei tagli proprio con questo sistema. Quindi ti stai segando da solo? Io non è sì, che sì, però la soddisfazione di potersi quantomeno togliere tutti questi stracci da addosso è stata la cosa più bella poi. E quindi cosa hai detto al capo? Urlando, strillando, sbattendo o semplicemente dicendogli sei un inetto? No, e purtroppo la difficoltà maggiore è stata che il mio capo è spagnolo, quindi litigare in un'altra lingua è estremamente difficile e complicato. Beh, uno un vocabolorino, esistono magliettine. Ma quelli italiani o perlomeno romaneschi sarebbero stati molto più adatti. Quindi lei col dizionarietto in mano cercava lì di arrovellare, quindi non ha capito nulla questo? No, credo che abbia capito, perché poi alla fine gli ho detto, se tu pensi di trovare qualcuno meglio di me, mettilo qui, arrivederci, grazie. Vabbè, è come dire tagliarsi la testa e metterla su un piatto e lasciargliela sulla scrivania. Lo so, ma in certi casi bisogna... Ma rifletta, perché secondo me... il livello della soddisfazione di quello che ha detto al capo non è compensato dal disastro che ne avrà come conseguenza nella sua vita professionale. Essendo lei già sulla soglia di essere segato, doveva mettergli le mani addosso a questo punto, rovesciargli una vassoiata di robe schifose sulla faccia, far qualcosa di più, due paroline in italiano che lui nemmeno ha capito e se ne esce segato, non so quanto le è convenuto. No, per fortuna ho parlato abbastanza spagnolo, lo parlo abbastanza, quindi diciamo che le parolacce però, gliela dette, è come dire... Sì. Non esattamente parolacce, però quello ne sono che... uscito fisicamente distrutto, però gliene ho dette tante, diciamo così. Sì, diciamo che quantomeno ho salvaguardato la mia dignità di essere umano. Va bene, uscirà salvo nella sua dignità e probabilmente distrutto nella sua carriera. Melog 2.0. Fatevi! Che cazzo l'ho aperta, non parlate alle spalle, Giuda! Capiscerla! Che loco te la rimanevi meglio mortacci tua e segni tu chi sei l'uomo! Sì, sto l'uomo io! Andrà, lascia il mio! Lasciami che t'accoro pure a te! Stavolta la faccio finita! Lasciatemi che faccio uno sfracello! Lasciatemi! Ma io ho bisogno che me ne magni al cuore! Almeno così magni, è morto di fame! Morto di fame! Ma con la vomita da nostra ci hai mangiato un mese! Staccattoni! E roba che andate in giro senza mutande! Ma state zitta, la mannara! Astronzi! Questo è il problema. Una volta si era abituati al confronto duro, al confronto aspro, al confronto acceso, alcune promiscuità di vita di quartiere, di vita di borgata, di vita di paese, di vita di cascina di contadini permetteva che quasi quotidianamente ci si gettassero gli stracci in faccia. Poi è stato l'obbligo della convivenza in agglomerati urbani con pareti lievissime in cui non c'era intimità e in cui non si poteva alzare la voce, non ci si poteva amare, non si poteva strillare, non si poteva gioire, non si poteva dare manifestazione aperta della propria virulenza verbale. Perché? Perché tutti sentono, perché i vicini fanno parte della nostra vita, perché il diaframma che separa gli appartamenti è troppo labile, quindi siamo tenuti tutti dentro. E quindi consideriamo un'eccezione quella che sarebbe comunque la normalità. 800240024, oggi stiamo parlando della possibilità rara, esclusiva, molto limitata che abbiamo di far volare gli stracci. Anche sul profilo Facebook vedo ci sono grandi reazioni. Ah, devo dare un'informazione di servizio. Siccome il profilo Facebook che tutti avete sempre frequentato in questi ultimi anni è arrivato al top e non posso continuare a buttare via gente per rimetterne dentro altri, ho superato il limite, ho raggiunto il limite dei 5.000, hanno aperto un altro, c'è un nuovo profilo Gianluca Nicoletti su Facebook, già altri 5.070 amici. E qui si sta svolgendo un virulentissimo dibattito sul far volare gli stracci. Danilo racconta una storia bellissima. C'è un padre che va a parlare al tempo della scuola con i professori come sempre approfittandosi dell'umarellaggine di questo signore, cioè un signore inoffensivo, tranquillo, gli fanno la tipica dichiarazione del professore frustrato, che il figlio non vale niente, che il figlio perde tempo a scuola, lo mandasse da qualche altra parte. Insomma, colpiscono nel più intimo affetto paterno un uomo semplicemente per dirgli che il figlio non studia. Il padre torna a casa, incassa, molto mortificato anche di fronte agli altri genitori e tutto. Beh, il piccolo Danilo, che aveva 16 anni, va a scuola, il giorno dopo, di fronte alla classe, dice al professore: lei è uno stronzo. E quando il professore insiste a dire: ma cosa stai dicendo? Insiste, lancia una serie di improperi talmente forti verso questo professore che il professore perde anche lui la consapevolezza del proprio status. Dice: in quella classe si vede a un certo punto un ragazzo di 16 anni e un uomo di 35 anni che stanno per andare alle mani come se fossero due ragazzacci di strada. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io volevo dire che il fatto di far volare gli stracci può essere una cosa molto utile come cartina di tornasole per i rapporti, specialmente i rapporti di amicizia. Io con tutti i miei amici almeno una volta ho fatto, o loro hanno fatto con me volare gli stracci. In particolare una volta con uno che adesso è forse il mio migliore amico, e allora era mio amico ed era anche mio collega di lavoro. Io al tempo facevo... Ho difficoltà a capire, non avendo io amici, non ricordo più quali siano. No, ma non dico, lo dico veramente. io facevo allora facevo l'informatico, il programmatore, e stavamo lavorando nella stessa azienda insieme ad un progetto e c'erano dei contrasti su come portare avanti questo lavoro. Dopo varie punzecchiature e frecciatine, a un certo punto ci siamo guardati, tipo sfida all'OK Corral, siamo andati nello stanzino delle macchinette del caffè, uno di fronte all'altro, e ce ne siamo detti di tutti i colori urlando a voce alta. Io ho già una voce piuttosto imponente, mio amico pure, e ce ne siamo detti veramente di tutti i colori. Ma risalendo anche quella volta che giocavamo a pallone, tu mi hai fatto un fallo, cioè risalendo anche agli albori della vostra amicizia. No, perché ci conosciamo da non molto, ma eravamo già molto amici, e quindi ce ne siamo dette anche, siamo andati sul proprio carattere, ognuno rinfacciando manchevolezze del carattere dell'altro. E dopo? A un certo punto c'è stato un attimo di silenzio, quando la cosa è arrivata a livelli parossistici, attimo di silenzio, siamo guardati in faccia, siamo scoppiati tutti e due a ridere, ci siamo abbracciati e siamo andati di là più amici di prima a continuare il lavoro. Una bella storia. È stato così, ogni tanto è come scremare, togliere la crema dal latte per far tornare il latte limpido. È bella questa cosa, però chissà perché mi lascia inappagato. Io cerco le radici profonde dell'odio. Io cerco non gli amici che si sbaruffano e poi si accorgono che in realtà si vogliono bene, si abbracciano, escono tutti contenti. Io cerco persone che veramente vogliono demolire un'altra persona perché hanno incassato, perché hanno mandato giù, perché la odiano. Questa è una bella storia, ma non è esattamente il lasciarsi andare che cercavo io. Sentiamo però che forse una persona può aiutarci. Maria, buongiorno. Hola Gianluca, buongiorno. Ecco, Maria, che è una gruppi di antica data, messicana, fabbricatrice di tortillas e di altre meraviglie della sua terra, però sì, è stata chiamata in causa perché il signore prima diceva che di non essere capace a insultare il suo capo in spagnolo. Te invece, che sei madrelingua, avrai sicuramente nella tua occasione di far volare gli stracci usato la lingua che ben conosci, o no? Infatti io gli ho detto di tutto di più a questo disgraziato, perché... Ma cos'era successo? Allora, io lavoravo per un partito politico, questo qua è un pezzo grosso, all'epoca era un pezzo grosso, io facevo il capo ufficio, però lui era proprio schiavizzante, perché io dovevo lavorare tipo dalle 6 di mattina fino a 1 di notte, da lunedì a domenica, era una cosa molto... Tipo esclava Isaura, una cosa del genere? Sì, la esclava Isaura è poco, veramente, anche se pagava bene, questo era una cosa molto snervante, anche perché lui era uno che esigeva, voleva, pretendeva. Ma gli uomini grandi e potenti esigono sempre dalle loro collaboratrici, è chiaro. Sì, vabbè, però io sotto di me c'erano 20 persone, poverini, io li dovevo anche a loro esigere, era molto stressante. E esigeva da te, evidentemente c'era un motivo sottile che forse ti è sfuggito. No, guarda, anche quello poteva esigere, però per me poteva esigere, ma lo lasciavo parlare, tanto poverino, era piuttosto uno, non dico tipo come quale, però era uno che aveva tante donne, faceva tante cose. Lo dici con rammarico, che vuol dire? No, ma figurati, no, era un brutto, pelato, vecchio, che l'unica cosa che voleva era approfittarsene di tutti quanti, e quella è la verità. È un quadro tipico di uomo di potere, comunque di uomo che ti potrebbe far uscire dalla grazia di Dio, e finalmente tu un giorno hai avuto il coraggio di fare questo atto di ribellione. Sì, perché un giorno era l'una di notte, questo mi chiama al telefono e mi chiede, voglio assolutamente che tu mi dia il giornale di venerdì scorso, in questo momento. Io, ma scusa un attimo, io sto arrivando a casa adesso, sto rientrando, è l'una di notte, a cosa cavolo ti serve un giornale a quest'ora? Non te lo do domani. No, ma qualcuno deve essere nel tuo ufficio, io devo avere 24 su 24 delle persone lì. No, mi spiace, la gente ha bisogno e ha necessità di riposarsi. Beh, però se eravate in 20, in effetti, forse sì, qualche ragione ce l'aveva. 20 persone, se lui voleva una copertura H24 in una certa situazione, io non c'ero. La differenza è che mentre me pagava più o meno bene, a questi quali li teneva veramente con degli stipendi molto molto bassi. Figurati. Beh, alla che fine... c'era uno che saltava e diceva, oh, io ci sto, Maria, io me ne rimango qua. No, non era. E allora cosa hai detto? Allora ho detto, guarda Isidro, tu sei uno schiavista moderno, tu sei uno che aspira ad avere chissà cosa, ti garantisco che tu alla sedia che stai volendo non arriverai mai, perché sei un incompetente, eres un desgraciado, me tienes hasta la madre e che me vas a puntitas alla cingada, non voglio più sapere niente di te. Ma lui ha capito queste cose orribili che tu hai detto lui? Assolutamente sì. Ah, ecco, quindi l'hai capito anche tu, figurati se lui. Beh, io no, ma no, sono laureato in lingua e letteratura spagnola, quindi è chiaro che l'ho capito, ma lui non è detto. Ha capito, tanto ha capito che mi ha detto ok, io non ho più fiducia in te, da domani tu non lavori per questo partito, va bene, grazie. È finita la tua carriera politica, Maria, ma noi vogliamo compensarti in qualche maniera di questo terribile momento, la tua esistenza di povera emigrata fabbricatrice di tortillas che finalmente aveva trovato un uomo che poteva naturalmente occuparsi lei, e quindi? Il vincitore! Ho vinto qualche cosa? Allora, a Maria Castaneda, la messicana che fabbrica tortillas e prepara margarita, per aver avuto il coraggio di distruggere verbalmente nel suo fantastico idioma il terribile uomo che voleva far di lei una schiava non soltanto del suo lavoro ma probabilmente anche dei suoi torbidi appetiti, regaliamo il libro infame di Rosella Panigatti, Le relazioni energetiche, con allegato CD-ROM, usare l'energia per migliorare il rapporto con noi stessi e con gli altri. Brava Maria. Grazie Gianluca, me lo firmi, se no mi arrabbio. Certo, lo avrai firmato e reliquiato. Grazie Maria, e lasciamo la linea alle informazioni del traffico. Melog 2.0. Te lo ricordi l'anno scorso quando sono stata male? No. Che ero in depressione? No. Non te lo ricordi, per forza non te lo ricordi, non te sei nemmeno accorto. E stavi lì con i tuoi vinili a scaricare la musica dal computer. Che è un processo, questo. Scusa, è un processo, sta per processo. E secondo te, chi c'era lì vicino a me? Non lo so. Te lo dico io chi c'era. E te lo dico io. Guido. C'era Guido. C'era Guido. Guido, sì. E quando volevo uscire, perché stavo male, volevo uscire. Allora, un cinema, un teatro, un concerto, che ne so, dov'eri tu? Ma che ne so? Non lo voglio nemmeno sapere! Ma che muri! Non lo voglio nemmeno sapere! Madonna mia! E chi mia. C'era con me? Ma chi c'era? Ne so chi c'era a starmi dietro a darmi conforto? Chi c'era secondo te? Guido! Esattamente! E te ne voglio dire un'altra, Gilberto! Ti ricordi quella volta che mi sei fatto? 800-24-0024, qui ci troviamo in una sorta di lite già mediata comunque da un sostrato di psicosi familiare, di macerazione interiore, di suddivisione in schemi già noti di quello che è un rapporto coniugale. Era Verdone e Laura Morante nel film L'amore eterno finché dura. Ma la realtà è ben diversa, la realtà, i momenti in cui ci si getta gli stracci addosso, si è molto meno elaborati nel linguaggio, si è più viscerali probabilmente, si è più portati a dire le cose che veramente fanno male, che sono delle cose piccolissime, delle cose banali, e si può rimproverare alla persona con cui sei stato vicino tanti anni che magari ha sempre avuto l'alito pesante. Questa è una cosa terribile, dire questa cosa a una persona è una vera cattiveria, molto più che dire tu non mi hai capito, tu non comprendevi, tu non eri all'altezza. Barbara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Lei con chi ha litigato e per cosa? Senta, no, io volevo chiedere a lei, le mutande come le stende? Ma io non le stendo perché, grazie a Dio... Non le è mai capitato. No, forse quando facevo il campeggio, ma il fatto che io lavori mi posso permettere una persona che me le lavi e me le stende e me le stiri. No, perché... Però le vedo nello stendino, sono attaccate con le mollette. Sì, però è possibile stenderle o da un fianco oppure dalla parte centrale. No, allora se non le posso dire, sono attese dalla stese dalla parte dell'elastico, mi pare. La molletta è attaccata dalla parte dell'elastico. No, invece io le stendo dalla parte centrale. Dipende anche dal tipo di mutanda, lei che mutande porta? Beh, normali, insomma. È normali, non esiste la normalità nelle mutande. Esistono vari però tipi. Però invece un giorno ero in un periodo molto stressante, ero in lite continua con i miei suoceri e non riuscivo a portare dalla mia parte nessuno di famiglia, mio marito, i miei genitori, nessuno. Nessuno voleva aiutarmi ad affrontare questa situazione. E qual era il rapporto tra questo e, diciamo, le condizioni igieniche delle sue mutande? Erano pulite le mutande, solo che mia madre non mi dava ragione in questa mia rabbia, e un giorno ha steso le mutande per un lato. E io dicevo che questa cosa non andava bene. Ma per un lato che significa? Cioè piegate a metà? Sa dove c'è cucitura, il lato, il che rimane poi sul fianco. Beh, se ha delle mutande con un fianco, le mutande femminili di ultima generazione... Midi, quelle midi, cioè hanno... Non hanno un fianco, hanno un filino impercettibile lateralmente, è difficile. No, no, le mie sono midi, hanno 3 centimetri di altezza. Porta mutande ascellari, allora, lo confessi. No, fantocci, su. Porta mutande molto vintage, me, comunque va bene. Spesso in quel modo si deformano, un lato... Pronto? Ecco, sul momento più bello è caduta la telefonata. La riprenderemo senz'altro perché ci interessa capire come le sue mutande abbiano delle deformazioni strutturali, perché appese da un lato e quando le indossa quindi caleranno da una parte, immagino, e saranno sostenute dall'altra. Impossibile tenere le mutande sulle 23 per la nostra ascoltatrice, quindi recuperiamola perché la vedo molto vicina all'ambito traguardo. Fabio. Sì, pronto, salve Nicoletti. La mia è quasi la storia simile a quella di prima. Cioè anche lei stende le mutande di lato? No, a parte le mutande, semplicemente che sono invertiti i ruoli, nel senso che il protagonista è il marito, al di fuori, la moglie è, diciamo, la parte remissiva. Ecco. In sostanza, diciamo, ho subito e sopportato per anni, diciamo, tantissime vessazioni con i miei suoceri, sempre per questa frase famosa, quieto vivere, cioè questa formula che racchiude... Ha incassato per anni? Sì, ho incassato proprio, diciamo. E qual era l'oggetto della vessazione? Cosa doveva sopportare? Semplicemente, diciamo, una differenza di trattamento tra, diciamo, noi come famiglia, compresi i nostri figli, e la famiglia di fratello di mia moglie, che comunque era, diciamo, la protagonista principale, era la cognata, dove era tutto concesso, era tutto dovuto. Eh beh, perché quella era la donna del cocco bello di casa. Perfetto. Lei era lo straccio d'uomo che aveva preso questa figlia, che in realtà sarebbe dovuta rimanere tutta la vita a fare la zitella e occuparsi di cambiare il pannolone ai genitori. Assolutamente. La sintesi no, è questa. Non proprio così, cioè, ma semmai doveva essere, diciamo, il suo ruolo era la vittima sacrificale, nel senso che doveva essere la servetta della famiglia. Quello, ma è cosa ho detto? Riguarda... Esattamente quello. La figlia doveva rimanere in casa. Ma anche da sposata, anche non necessariamente da zitella, ma anche da sposata, ma il ruolo era sempre quello. Sì, sì. Prima di tu, in primis i suoi genitori e poi dopo veniva la nostra famiglia. Una volta nelle famiglie c'era sempre una zia zitella che si doveva occupare di genitori, nelle famiglie molto numerose. C'era la zia zitella, molte volte era quella un pochino anche non proprio lucida di cervello, era l'ultima zia, che era destinata a rimanere zitella, che doveva occuparsi dei genitori vecchi. E quindi rimane nel patrimonio genetico anche delle famiglie più attrezzate dal punto di vista del senso della contemporaneità, l'idea che una figlia deve rimanere comunque a occuparsi dei genitori. Quindi lei era l'ostacolo a questo servaggio, a questa badante consanguinea, capisce? Certo, anche perché poi aveva questi due fratelli maschi di cui... Vabbè, alla fine come li ha sfanculati i suoceri? Alla fine è successo quello, che poi secondo me non è ancora finita, perché io sono di natura, diciamo, vendicativo e rancoroso, perché tengo, ma non c'è... Ma andiamo all'episodio, perché ci avviciniamo alla fine. L'episodio è successo che quest'estate, diciamo, per un, come al solito, sempre la solita classica goccia che fa traboccare il vaso, io sono intervenuto in maniera energica, diciamo, e a quel punto si è quasi arrivati alle mani, perché mia suocera voleva alzare le mani davanti, tra l'altro, a mio figlio piccolo. Sua suocera? Io gli ho detto, questa me la pagherai. La suocera? No, mio suocero. Al suocero? Vuole ammenarla, sì, finalmente? Sì, diciamo, si arrivava, diciamo, allo scontro selvaggio, sì. Diciamo. Tiravamo fuori l'uomo selvaggio che c'è in noi. E lei come ha reagito? Non siamo arrivati... io, cioè, mi sono tenuto, anche perché avevo davanti gli occhi sbarati di mio figlio, era l'unica cosa che mi ha tenuto, ma per questo che ho detto che non è finita qui, la pagherai la prossima volta. No, lei dovrebbe... Infatti, siamo ancora in ballo, diciamo così. Io, secondo me, guarda, le do un consiglio, avendo fatto lo sfamiglio da tanto tempo, avendo radiato dalla mia memoria ogni familiare. L'ideale sarebbe che lei non abbia più rapporti con queste persone, perché questo è stato il primo passo successivo. No, ma se lei ancora ne parla e lei medita altri scontri, ne sarà sempre schiavo. Li cancelli dalla sua, resetti la sua memoria familiare. Ma guardi, la mia è anche una situazione di convivenza forzata, di coabitazione forzata. Ah, ce l'ha anche vicino di casa. Siamo su una bifamiliare, lei si rende conto. Siamo su una bifamiliare, quindi il primo passo è quello che dobbiamo fare. Vabbè, lei è un uomo morto, mi dispiace dirle, non c'ha speranza, mi scusi, o cambia casa o non avrà speranza. La prenda come il consiglio di un amico. Matteo. Salve. No, nulla, io volevo dire, secondo io catalogo gli accessi d'ira secondo vari tipi, perché un conto sono... Cosa ha fatto? Al punto dobbiamo chiudere, cioè abbiamo ancora una telefonata, poi devo chiudere. No, allora volevo semplicemente parlare della soddisfazione di quando si ha a che fare con una persona gerarchicamente superiore che cade in fallo e comincia a lei l'accesso d'ira. Allora la soddisfazione di essere dalla parte di chi ha ragione e rispondere all'accesso d'ira con l'accesso d'ira è una delle sensazioni. Però c'è sempre il grave rischio che la persona superiore gerarchicamente ce lo faccia pagare. Abbiamo recuperato Barbara. Barbara, chiuda sì, in un secondo. Qui. Allora, qual era l'oggetto del contendere? La mutanda? No, in realtà erano i problemi con la... con i suoceri, però la mutanda ha fatto scatenare questa ira nei confronti di mia madre, che non mi comprendeva e non mi aiutava. E quindi lei cosa ha detto alla mamma? Gliel'ho detto di tutti i colori, partendo dall'infanzia all'adolescenza. Partendo da quale episodio? Mamma, tu stendi? Tu non fai le cose che sai che... Sì, ma da cosa è partita? Il pretesto? Il pretesto era questo, io avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a litigare con i miei suoceri e non mi aiutavano. Sì, ma da cosa è partita? Il motivo... Come ho iniziato a litigare con mia madre. Vabbè, non lo dice, allora non le do il libro, mi dispiace, voi mandi il libro pronto, lei era partita bene. Ma infatti è che è successo 5 anni Beh, fa. Beh no, lei ha avuto un momento di ripensamento per la sua reticenza, il libro infame non viene assegnato, mi dispiace, ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.